no, non frequenta, c'è e non è colpa mia. Se fanno un casino, perché fate casino anche voi. Comunque che non si ripeta più a dire, ogni volta che entra Falcone entra un casino, ogni volta che entra quello fa così. A me non mi girate il coglione, perché già mi hai girato il coglione Matteo, capito? E non ci vuoi anche tu. Detto questo ti ho detto tutto. Poi se c'è anche Dingo, è valido anche per lui. Perché anche lui quando c'era l'antenino, faceva... dice che nessuno lo copia e gli facevo compagnia io. Poi da quando è diventato amico tuo, sta facendo peggio di te. Perciò stai attento, io ti sto vedendo, perché io posso chiamare pure l'escort radio, capito Rob? Io non mi metto paura di nessuno, capito stronzo? E vi ho detto, anche che non so, con il momento basta che io dico all'escort radio di andare giù a San Giovanni e poi sono a capo di tui. E ogni volta che entra Falcone entra un casino, va andato su 41 a dire ai 420. Io ne ho solamente 40 canali, che vuoi mettere in testa? Io ne ho come gli altri, capito? Dovete, se non vuoi casino, che non fai tu non fanno gli altri. Io non c'era perché no, me l'avete fatto squillare il telefono, allora cosa dovete fare? Ti dovete mettere a portante tutta la sera. E poi non me ne sono fregato niente. Senti, è vero Bari? Avevo detto che c'ho il mio vicino di casa. E se quello si accorge appena appena, non so cosa ne esce fuori.